questo fiume silenzioso che mi porta più lontano. Non sarà percorso in vano se tu partirai con me. Se la notte si avvicina, mi potrai trovare sveglia. Sulla luce che ti abbaglia, io ci metterò un foulard. Ci sarò quando vorrai chiamarmi, io verrò. E per addormentare te, io ti potrò cantare quello che vorrai sentire. Ci sarò prima del temporale, io verrò per ripararti sulla via. Io ti potrò coprire ed aspettare il sole che verrà. Non avremo freddo più. Mentre passano stagioni che trascinano ricordi, non è detto che sia tardi se non guardi che ora è. Tra i percorsi accidentati che ci possono cambiare, c'è una foto da guardare, quelle facce siamo noi. Ci sarò dentro alla nostra stanza, ti dirò tutte le favole che so, ma le farò cambiare inventando un lieto fine. Ci sarò prima del temporale, porterò questo soprabito che ho e ci nasconderemo ad aspettare il sole che verrà. Non avremo freddo. Ci sarò prima del temporale, riuscirò a rimanere qui con te e resterò in silenzio ad aspettare il sole che verrà. Non avremo freddo più. Non avremo freddo.